Pronti? Motore. Partito. Ciak. Azione. Nella vita è importante che ogni cosa abbia una giusta conclusione. Solo così si trova la pace. Audiogrammi di Laura Faggin e Paolo Corleoni. You are a cinema, a Hollywood treasure. I love you just the way you are. A cinema, a cinema. Mettetevi comodi, vi stiamo per raccontare il secondo tempo di Vita di Pi di Ang Lee. Dopo il naufragio della nave sulla quale viaggiava con la famiglia e gli animali del suo zoo, Pi si trova alla deriva nell'Oceano Pacifico su una zattera di fortuna legata a una scialuppa occupata da un pericoloso compagno di viaggio, la gigantesca tigre Richard Parker. Per sopravvivere, dovrà trovare il modo di raggiungere acqua e viveri sulla scialuppa senza farsi divorare dalla tigre e di coesistere con lei nel lungo viaggio verso la salvezza. Audiogrammi in radio come al cinema. Pi si tuffò sulla zattera, che girò su se stessa. Intorno a lui fluttuavano pinne triangolari. Era fuggito dalla scialuppa per salvarsi la pelle, ma adesso voleva tornarci. La zattera era una soluzione troppo precaria, ma non aveva scelta. Le sue possibilità erano limitate. Poteva scegliere se appollaiarsi sopra la tigre oppure sopra gli squali. Ma aveva fame e sete. Doveva avvicinarsi. Tirò la fune e si avvicinò alla barca. Richard Parker sembrava immobile. Frettolosamente Pi cacciò il braccio nel ripostiglio e guardò dentro. I suoi occhi si posarono subito su ciò che agognava più di ogni altra cosa. Che sia in bottiglia, in lattina o in cartone, l'acqua è inconfondibile. Sulla scialuppa il nettare della vita era racchiuso in lattine color oro. Si mise a sedere, spalancò la bocca e si portò la lattina alle labbra. Al ritmo gorgogliante delle sue avide sorsate, l'acqua cristallina cominciò a scendere nel suo organismo, pura, deliziosa, fantastica. A quel punto comparve un ratto. Come sbucato dal nulla, magrolino e marrone, si materializzò sulle lattine dell'acqua. Sbucò anche Richard Parker, che tentò di nuovo di saltare sulla cerata, verso Pi. Il ratto corse sulla tela e si precipitò nella direzione di Pi, lanciandosi su di lui e arrampicandosi sulla sua testa. Richard Parker aveva seguito la bestiola con lo sguardo. Adesso fissava la testa di Pi, che afferrò il ratto e lo gettò verso di lui. Richard Parker spalancò la bocca e il ratto scomparì all'interno squittendo. La coda liscia fu risucchiata come uno spaghetto. Pi approfittò della distrazione e si gettò nuovamente sulla zattera, lontano dalla scialuppa e dalla tigre. Lentamente scese la notte. Tutto quello che li circondava fu inghiottito dall'oscurità più nera. Scoprì che c'era un quaderno nell'attrezzatura. Scrisse un messaggio e lo infilò in una delle lattine vuote. Mi chiamo Pi Patel. Sono vittima di un naufragio. Mi trovo su una scialuppa da solo, con una tigre. Per favore, mandate aiuto. Dio, io mi affido a te. Sono il tuo servo. Qualunque cosa avverrà, voglio conoscerla. Mostramela. Doveva domare Richard Parker. Erano letteralmente e metaforicamente sulla stessa barca. Sarebbero vissuti o morti insieme. Date fiato alle trombe! Via con il rullo di tamburi! Preparatevi a rimanere stupiti! Pronti ad assistere al miracolo? Molto bene! Diamo il benvenuto all'incredibile tigre del Bengala! P salì sulla scialuppa in piedi sull'incerata e vi urinò sopra. Doveva marcare il suo territorio, creare una zona della barca dove potesse salire anche lui. Mio! Capito? Tuo? Mio! Capito? Per tutta risposta, Richard Parker gli spruzzò un getto d'urina addosso. Grazie al manuale, P scoprì che cos'è un distillatore solare, un dispositivo che trasforma l'acqua salata in acqua dolce. Anche Richard Parker doveva essere assetato. P mise dell'acqua nel secchio e si avvicinò fischiando. Tieni, Richard Parker. Ho un po' d'acqua per te. Allo zoo davamo alle nostre tigri circa 5 kg di carne al giorno. Presto Richard Parker avrà fame. Le tigri sono formidabili nuotatori. E quando sarà affamato temo che la poca acqua che ci separa non sarà di alcuna protezione. Devo trovare un modo per farlo mangiare. Io posso mangiare i biscotti, ma Dio ha creato le tigri carnivore. Pertanto devo imparare a prendere dei pesci. Se non lo faccio, temo che il suo ultimo pasto sarà un magro ragazzino vegetariano. Dopo molti tentativi, riuscì a prendere un dorado. Un pesce grosso, color oro brillante, blu e verde. Ucciderlo non fu facile. Prese l'accetta e lo colpì. Con le lacrime che gli bagnavano le guance, si costrinse a insistere finché non sentì qualcosa spezzarsi e la vita smise di agitarsi fra le sue mani. Pianse molto per quella povera piccola anima deceduta. Era il primo essere senziente che uccideva in vita sua. Mi dispiace. Mi dispiace. Gettò il pesce a Richard Parker sulla scialuppa. Perché gli fosse chiaro che il cibo fresco veniva da P, soffiò due volte con forza nel fischietto. Da lì in poi avrebbe cercato di dare a Richard Parker sempre da bere e da mangiare. In quel modo avrebbe acquistato potere. Le prove? Rimase in vita, giorno dopo giorno, mese dopo mese. Passavano i giorni e le scorte di cibo calavano. Così P dovette ridurre i consumi a razione di emergenza fino alla dose consigliata. Due biscotti ogni 8 ore. Aveva sempre fame. Cercò di avvicinarsi e sollevare l'incerata della barca in cerca di idee e di esche per pescare, ma Richard Parker lo vide. In quel preciso istante l'aria vibrò e poi furono investiti da un branco di pesci volanti. I pesci schizzavano fuori dall'acqua a dozzine, restando sospesi per decine di metri. Molti si rituffavano in mare appena prima della scialuppa. Altri la sorvolavano senza incidenti, altri ancora si schiantavano contro il suo fianco. I più sfortunati caddero dentro la barca. Richard Parker reagì con grande prontezza all'attacco dei pesci. Si alzò e fece del suo meglio per acchiapparne e addentarne quanti più poteva. Molti li ingoiò in un boccone. Il motivo di quella carica di pesci fu chiaro quando vide alcuni dorado balzare fuori dall'acqua, lanciati all'inseguimento dei pesci volanti. Erano più grossi delle loro prede e non potevano liberarsi in volo altrettanto a lungo. Un dorado colpì il bordo della scialuppa come una cannonata, facendola oscillare. Cadde all'interno della barca. P lo prese subito, ma con la coda dell'occhio vide Richard Parker che girava l'enorme testa verso di lui. I pesci volanti continuavano a sfrecciare, ma ora la tigre non era più interessata. La sua attenzione era tutta per ciò che teneva P tra le mani, il pesce più grosso. Ma quando è troppo, è troppo. P aveva sofferto le pene dell'inferno ed era affamato. Digiunava da molti giorni. Sfidò la tigre con lo sguardo e con un bastone. Non cedette. Richard Parker si leccò il naso, emise una sorta di grugnito e si girò, pronto a sfogare la rabbia sul primo pesce volante. Aveva vinto l'umano. P rimase a bocca aperta, incredulo. Prese il dorado e corse sulla zattera. La La fame può cambiare tutto quello che pensavi di sapere di te stesso. C'erano tante altre cose a cui pensare. Per esempio, al modo di ripararsi. Non per niente Richard Parker si rintanava sotto l'incerata. Restare all'aperto, esposto al sole, al vento, alla pioggia e al mare, era estenuante. La zattera andava assicurata alla scialuppa con una seconda fune, nel caso la prima si rompesse. Al momento stava a galla, ma non era abitabile. Doveva attrezzarla e renderla minimamente confortevole, in attesa di domare Richard Parker e quindi potersi trasferire di nuovo sulla scialuppa. Non posso rischiare la vita ogni volta che devo salire sulla barca per le provviste. Bisogna trovare una soluzione. Se dobbiamo convivere, bisogna imparare a comunicare. Forse Richard Parker non può essere addomesticato, ma con la volontà del Signore può essere ammaestrato. A quel punto si dedicò alla zattera. Esaminò tutti i nodi che la tenevano insieme per assicurarsi che fossero ben stretti. Decise di trasformare il quinto remo in una sorta di albero. Il risultato non era certo un galeone. Le dimensioni del ponte gli consentivano a malapena di sedersi a gambe incrociate o di rannicchiarsi in posizione quasi fetale. Ma non poteva lamentarsi. Galleggiava e lo avrebbe salvato da Richard Parker. Non avrei mai immaginato che una piccola ombra potesse donare una tale gioia. Che una pila di libri, un secchio, un coltello, una matita potessero diventare i miei più grandi tesori. O che la presenza di Richard Parker avesse potuto donarmi pace un giorno. Ora siamo orfani, qui insieme, ad affrontare il nostro Maestro Supremo. Senza Richard Parker sarei morto ormai. La mia paura di lui mi tiene vigile. Occuparmi delle sue necessità mi dà uno scopo nella vita. All'inizio P scrutava l'orizzonte ossessivamente, sperando di scorgere una nave. Ma dopo 5 o 6 settimane smise quasi del tutto. Ogni tanto lanciava un razzo di segnalazione. Finiti i razzi, passò ai fuochi. Quelle luci erano navi che non lo vedevano? Oppure onde che la luna e le sue speranze trasformavano in miraggi? In ogni caso, finiva sempre allo stesso modo, in niente. E le sue illusioni crollavano. Col passare del tempo smise di pensare che una nave lo avrebbe salvato. Non poteva contare sul genere umano e sui suoi percorsi inaffidabili. Era la terra a cui doveva puntare, concreta, solida e sicura. Soprattutto, non perdere la speranza. Email audiogrammi@radio24.it. Il sale divorava tutto con le sue 1000 bocche affamate. Il sole arrostiva ogni cosa. Intontiva Richard Parker, bruciava i vestiti di P e gli avrebbe bruciato anche la pelle, benché fosse scura. Deperirono entrambi. Avvenne lentamente, quasi impercettibilmente. Solo a tratti P se ne rendeva conto. Erano due mammiferi emaciati, prosciugati e affamati. Il manto di Richard Parker perse la sua lucentezza. Si ridusse a uno scheletro avvolto da un'enorme sacca di pelo sbiadito. Come faceva Richard Parker, anche P cominciò a dormire un numero incredibile di ore. Mi rimangono solo le parole a cui aggrapparmi. È tutto sottosopra, frammentato. Non distingo i sogni ad occhi aperti da quelli notturni o dalla realtà. La tempesta arrivò lentamente nel pomeriggio. Le nuvole galoppavano spaventate, inseguite dal vento, e il mare entrò in scena puntuale. Tempesta, Richard Parker! Cominciò a sollevarsi e a cadere con tale violenza che anche il cuore di P sprofondò. Mise in salvo la rete che usava per pescare e i distillatori solari. La zattera se la stava vedendo brutta. Sbalzata verso l'alto, piombava nell'acqua da altezze vertiginose per essere sommersa e strattonata in ogni direzione. P calò entrambe le ancore a profondità diverse, in modo che non interferissero l'una con l'altra. Pioveva a dirotto. Si udivano i tuoni in lontananza. Si alzò il vento e scaraventò pioggia dappertutto. I lampi colpivano il mare. Il fragore dei tuoni era tremendo. Il bagliore della luce incredibilmente vivido. Non era difficile capire che cosa ne pensasse Richard Parker. Giaceva appiattito sul fondo della scialuppa, con le zampe allargate e tremanti. Quello spettacolo ebbe invece su P l'effetto opposto. Lo gettò in uno stato di estatica meraviglia. All'improvviso un fulmine cadde molto vicino. Ci fu un'esplosione d'aria e acqua calda. 10.000 trombe e 20.000 tamburi non avrebbero potuto eguagliare il boato di quel tuono assordante. Il mare diventò bianco e tutti i colori svanirono. Lode al Signore! Signore di tutti i mondi! Vieni fuori! Richard Parker! Vieni fuori! Lo devi vedere! È bellissimo! Non ti nascondere! È venuto da noi! È un miracolo! Vuoi spaventare? Oddio, ho perso la mia famiglia! Ho perso tutto! Mi arrendo! Che cos'altro vuoi? Arrampicandosi sulle onde, la scialuppa si aggrappava alle ancore come uno scatolone alle funi. Poi arrivò un'onda seriamente intenzionata a portarli con sé e la prua della barca scomparve sott'acqua. La scialuppa era mezza allagata. P udì il ruggito di Richard Parker e capì che la morte era loro addosso. Non gli restava che scegliere. Preferiva morire annegato o sbranato. Scelse di morire sbranato. Si aggrappò alla fune con tutte le forze. La scialuppa aveva un'inclinazione di 45 gradi. Si sbilanciò in avanti e un torrente d'acqua con una tigre a mollo gli venne incontro. Prima che la vallata successiva li risucchiasse, P era mezzo annegato. Per il resto del giorno e nelle prime ore notturne, fecero su e giù per le onde senza sosta. All'alba, P si rese conto di aver perso la zattera. Perlustrò ogni centimetro dell'orizzonte. Nulla. La sua piccola città marina era svanita. Era a pezzi, depresso. Sganciò l'incerata a poppa. Richard Parker era così silenzioso che P si domandò se non fosse affogato. No. Mentre P riavvolgeva parzialmente l'incerata, la luce del giorno raggiunse la tigre, che si mosse e soffiò. Erano entrambi distrutti. P provò pena per Richard Parker. Anche lui non riusciva quasi più a muoversi. La loro fine era vicina. Aveva fame e ancora una volta non c'era niente da mangiare. Il giorno successivo, P cominciò ad avvertire un bruciore agli occhi. Li strofinò a lungo, ma il fastidio non se ne andò. Non vedeva quasi più. Concluse con tristezza che non avrebbe più potuto prendersi cura di Richard Parker. Come custode, aveva fallito. La certezza della morte del suo compagno di viaggio lo affliggeva più dell'imminenza della sua. P percepiva una debolezza fatale insinuarsi dentro il suo corpo. Se ne sarebbe sicuramente andato prima del tramonto. Si appoggiò al bordo arrotolato dell'incerata, al centro della barca. Si avvicinò a Richard Parker, chiuse gli occhi e attese che il respiro abbandonasse il suo corpo. Stiamo morendo, Richard Parker. Mi dispiace. Abba. Abba e Rabbi. Sono contento che presto ci rivedremo. C'è la pioggia, la senti? Dio, grazie per avermi donato la vita. Sono pronto. In quello stato catatonico, P non si accorse che la scialuppa sfiorò un isolotto. Era una massa fitta e intricata di alghe tubolari, spesse un paio di centimetri. Dopo qualche minuto per capire, strisciò fino al bordo della scialuppa. L'isolotto era a due passi da lui. A pancia in giù, aggrappandosi all'incerata, calò lentamente una gamba e immerse il piede nel mare. La bolla di illusione poteva scoppiare da un minuto all'altro, ma non lo fece. L'odore delle alghe, rigoglioso, fresco, travolgente, colpì il suo olfatto. Dopo mesi di acqua salata, la densa fragranza della sostanza organica vegetale era sin troppo intensa. Che cos'erano quelle strane piante tubolari, così fitte e aggrovigliate? Si potevano mangiare? Ne afferrò una che si spezzò senza fatica, la avvicinò al naso. A parte la piacevole fragranza tipica delle piante, non aveva un odore particolare. La morse e i suoi occhi si socchiusero del piacere di trovarla buona e zuccherina. Cominciò a staccare le alghe che lo circondavano. Continuò a ingoiare alghe finché non fece il vuoto intorno a lui. Non masticava in modo così veloce e impegnativo da molto tempo. Richard Parker! L'isola era ricoperta da una vegetazione così fitta e gommosa che decisamente non c'era posto migliore per reimparare a camminare. Passò la giornata a camminare e a cadere, cercando di esplorarla. Era tutta ricoperta di alghe. La foresta, al centro dell'isola, era circondata da centinaia di minuscoli laghetti perfettamente identici e distribuiti in modo uniforme. Ma furono i suricati a impressionarlo. Al primo colpo d'occhio gli parvero centinaia di migliaia. Il paesaggio brulicava ovunque di suricati. E quando lo videro, si girarono tutti verso di lui e si alzarono. Un suricato è un piccolo mammifero dell'Africa meridionale simile alla mangusta. Quando è allerta, il suricato assume una peculiare posizione. Simile a un treppiedi, sta in equilibrio sulla punta delle zampe posteriori bilanciandosi con la coda. Spesso accade che si mettano in quella posizione a gruppi, eretti, tutti con lo sguardo fisso nella stessa direzione, come pendolari in attesa dell'autobus. Quella fu la scena che si presentò agli occhi di P. Centinaia di migliaia di suricati, forse un milione, girati verso di lui e sull'attenti. Sembrava che non avessero paura. Mentre P proseguiva giù per la collina, non uno di loro si allontanò o mostrò il minimo turbamento per la sua presenza. Decise di avvicinarsi a un laghetto e dovette scostarli con i piedi per non calpestarli. Tra di loro giacevano carcasse e ossa di pesci. Tutti i laghetti erano ugualmente rotondi e avevano un diametro di circa 12 metri. L'acqua era profonda e limpida. Anzi, sembrava che il fondo non ci fosse proprio e le pareti erano muri di alghe verdi. P toccò l'acqua. Era più fredda di quanto si aspettasse. Ci doveva essere una corrente gelata che proveniva dal fondo. Con le mani a coppa raccolse un po' d'acqua e la portò alla bocca. Ne bevve un sorso. Era dolce. Non si chiese il perché di tale fenomeno, né come e dove finisse il sale. La sua mente cessò di farsi domande. Scoppiò a ridere e si tuffò in un laghetto. Audiogrammi Radio 24 è anche su Facebook. E in podcast su radio24.it. Faceva fatica a stare a galla perché era ancora molto debole e il suo corpo non aveva abbastanza grasso. Si aggrappò alla sponda. L'effetto di quel bagno nell'acqua dolce, pulita, pura, era per lui impossibile da descrivere a parole. Ad un certo punto i suricati si girarono tutti contemporaneamente nella stessa direzione. P uscì dall'acqua per vedere che cos'era. I suricati avevano vissuto per così tante generazioni senza predatori che qualsiasi nozione di distanza di sicurezza, fuga, paura, era stata geneticamente eliminata. Infatti, la tigre si stava facendo strada fra la folla, lasciando dietro di sé una scia di morte e caos, divorando un suricato dopo l'altro. P era lontano da lui, quindi non era in pericolo, almeno per il momento. Per la notte, P decise che era più sicuro dormire sopra un albero. Aveva appena finito di sistemare il suo rifugio quando si accorse che era scoppiato un putiferio fra i suricati. Stavano fuggendo dai laghetti, a ben guardare dall'intera pianura, e si dirigevano di corsa verso la foresta. Un'intera nazione di suricati in fuga, le schiene curve, i piedi appena visibili. Anche i suricati del laghetto più vicino al suo albero lo avevano circondato e si stavano arrampicando sopra. Non si dimostrarono aggressivi. Si arrampicarono fino a P, sopra di lui e intorno. Si appostarono su ogni ramo dell'albero che alla fine era stracarico. Si appropriarono persino del suo letto. E stava succedendo la stessa cosa ovunque. Invasero ogni albero. La pianura si spopolò. Anche Richard Parker corse via per andare a sistemarsi e a dormire nella scialuppa. Poi i suricati si sdraiarono e smisero di squittire. Sull'albero calò il silenzio. Si addormentarono tutti, anche Pi. Nel mezzo della notte, Pi si svegliò e si accorse che tutto riluceva stranamente di ombre nere, grigie e bianche. Vide che la luce proveniva da un laghetto. Forme argentate si muovevano nell'acqua, emergendo dalle profondità per infrangere la superficie scura. Erano pesci, pesci morti. Affioravano dagli abissi e galleggiavano in superficie. In poco tempo il laghetto si riempì di ogni specie di pesci morti, finché la superficie nera divenne argentata. E da come la superficie si agitava era evidente che continuavano ad affiorarne. Ma non un suricato scese per andare al laghetto. Non ci provarono nemmeno. Incuriosito, Pi studiò meglio la foresta dove si trovava. Un albero lo colpì perché sembrava avere dei frutti. Erano appesi a rami aggrovigliati in maniera strana. Allungò la mano per afferrarne uno, lo tirò e staccò tutti i suoi piccioli. Il frutto era una palla di foglie fittamente sovrapposte. Le tirò via ad una e poi venne alla luce. Al centro del frutto, come una perla in un'ostrica, c'era un dente umano. Era il dente di un umano. Non capisce? Quell'isola era carnivora. Carnivora? Come la Venere acchiappamosche? Sì, l'intera isola. Le piante, l'acqua dentro quei laghetti, perfino il terreno stesso. Durante il giorno i laghetti contenevano acqua dolce, ma di notte qualche strano processo chimico trasformava l'acqua dei laghetti in acido. Acido che aveva dissolto quei pesci. Per questo i suricati si rifugiavano sugli alberi e Richard Parker sulla barca. Ma il dente da dove era venuto? Anni prima qualche sfortunato proprio come me doveva essersi trovato naufrago sull'isola e come me pensava di poterci rimanere per sempre. Ma tutto quello che l'isola gli offriva di giorno, di notte glielo portava via. Pensi quante ore da solo passate in compagnia dei suricati. Quanta solitudine vissuta. Quello che posso immaginare è che quando morì, l'isola lo digerì e lo assimilò, lasciando soltanto i suoi denti. Ho visto come sarebbe finita la mia vita se fossi rimasto su quell'isola da solo e dimenticato. Dovevo ritornare al mondo. O morire provandoci. Il giorno seguente preparai la barca. Come scorte portai tanta acqua dolce, mangiai alghe sino a riempire il mio stomaco e portai tutti i suricati che riuscii a stipare nello scomparto provvista per Richard Parker. Non potevo andarmene senza di lui. Significava ucciderlo. E così aspettai il suo ritorno. Sapevo che non avrebbe tardato. Richard Parker! Quando raggiungemmo la terraferma in Messico, avevo paura di lasciare la presa della barca. Mi trascinai fino alla riva e mi accasciai sulla sabbia. E da qualche parte due occhi mi sorridevano perché ero lì. Ero talmente indebolito che mi muovevo appena. E così Richard Parker mi precedette. Si stirò le zampe e camminò lungo la riva. Al confine della giungla si fermò. Ero certo che si sarebbe girato a guardarmi, abbassato le orecchie e ringhiato, che in qualche modo avrebbe portato a una conclusione il nostro rapporto. Ma fissò solo la giungla e continuò dritto. E poi Richard Parker, il mio feroce compagno di patimenti che mi aveva fatto sopravvivere, scomparve per sempre dalla mia vita. Ero disperato. Non era facile credere a tutta la storia. All'inizio rimasi sconcertato. Mamma Gia aveva ragione. È una storia incredibile. Lei mi permetterà di scriverla? Certamente. Non è per questo che Mamma Gia l'ha mandata qui in fondo? Allora la sua storia ha un lieto fine. Beh, dipende da lei. La storia è sua adesso. Quella del signor Patel è di certo un'incredibile storia di coraggio e resistenza senza precedenti nella storia di tutti i naufragi. Pochissimi naufraghi possono dire di essere sopravvissuti così a lungo in mare, e nessuno in compagnia di una tigre del Bengala adulta. Testo tratto da Vita di P, Edizioni PM. Adattamento radiofonico di Margherita Aina. Audiogrammi è un programma ideato e condotto da Laura Faggin e Paolo Corleoni. Voce Laura Faggin. I love you just the way you are.